Italia in controluce. Inizia una nuova settimana di Italia in controluce quando sono le 13:34 minuti e 10 secondi. Siete all'ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore, tutti i giorni due edizioni di un programma, di un approfondimento della redazione di Radio 24 che racconta tutti i giorni l'Italia. L'Italia è il paese della cultura, delle belle arti, il paese dove tutti gli artisti del mondo sono passati da queste parti e hanno lasciato un segno indelebile. Ma le belle arti bisogna custodirle gelosamente, altrimenti il tempo potrebbe mettere in serio pericolo. Quelle che vi racconta oggi Chiara Di Cristofaro sono storie di belle arti, ma in controluce. Di lavoro ce ne sarebbe tanto in un paese come il nostro, la culla dell'arte, dicono, che però i soldi per l'arte non ce li ha e non offre nemmeno prospettive ai giovani che studiano restauro. Anche perché, per esempio, accade che per gli interventi sul Colosseo vengano scelte imprese edili e non specializzate. Così si mette a rischio una grande tradizione italiana, un patrimonio di sapere, quello dei restauratori. Ma soprattutto mancano le risorse, allora ci si inventa un finanziamento, si gioca di creatività, come è successo all'Archivio di Stato di Roma. 60 chilometri di scaffali che nascondono tesori, storie e meraviglie e che hanno appena svelato segreti e dettagli inediti della vita romana di Caravaggio negli anni tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che ora sono al centro di una mostra a Roma. E il direttore, Eugenio Losardo, promette per il prossimo anno nuove rivelazioni su un altro genio dell'arte italiana, Michelangelo Buonarroti. Noi che abbiamo molti documenti relativi appunto alla vita del grande fiorentino, del genio fiorentino nel suo periodo romano, lui ha vissuto più a Roma che a Firenze, faremo un'operazione simile a quella fatta con Caravaggio per Michelangelo. Noi abbiamo tutti i documenti di Michelangelo a Roma, tutti i documenti di Bernini, tutti i documenti di Borromini e così via, fino ad arrivare, insomma, evidentemente a Vanvitelli e a tutti i grandi artisti che hanno popolato Roma. Quindi quelli di Caravaggio sono una minuscola sezione, insomma, all'incirca una settantina, quelli fino adesso ritrovati e trascritti. Una minuscola sezione che ha dato vita però a un'importante mostra aperta fino al 15 maggio a Sant'Ivo alla Sapienza. Caravaggio a Roma, una vita dal vero, curata da Orietta Verdi e Michele Di Sivo e realizzata grazie al contributo di fondi privati raccolti grazie all'appello del direttore dell'archivio lanciato sulle pagine del Sole 24 Ore, a cui hanno risposto enti, associazioni ma anche privati cittadini, dal professore di Bergamo all'assicuratore di Frosinone, al signore ottantenne che si è raccomandato di fare in fretta perché i frutti del restauro li vuole vedere. Fondi per 170.000 euro, ben oltre ogni aspettativa, che hanno permesso anche di assumere a contratto 7 giovani ricercatori per il lavoro delicato e certosino di recupero delle carte notarili e dei documenti processuali, corrosi dal tempo e dall'acidità dell'inchiostro. Carte preziose che raccontano le risse e le vicende giudiziarie dell'artista lombardo a Roma e che rischiavano di andare distrutte. Uno studio storico che ha portato alla luce anche inediti di estremo interesse e che ridisegna luoghi, biografia e cronologia delle opere di Michelangelo Merisi, aprendo nuove porte alla critica caravaggesca. Il tutto realizzato grazie a un appello. Le risorse erano pari a zero per il restauro e sono state pari a zero anche per quest'anno. Abbiamo pensato di lanciare un appello e Gianni Riotta poi ci ha aiutato molto perché appunto chiedendo una sponsorizzazione per salvare questi documenti di Caravaggio ha dato uno spazio sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Credo che sia per il momento una strada obbligata, non so quanto possa funzionare, secondo me ci vuole un giusto compromesso tra quelle che sono le energie pubbliche e le energie private, perché per esempio dal punto di vista della formazione nessun privato può sostenere determinati costi di formazione. Le dico, un nostro funzionario capace di leggere i notai del 500 ha bisogno di 20 anni di formazione. Questa formazione è assolutamente indispensabile e in più quanto seriamente si può fare la ricerca con una considerazione così scarsa anche a livello economico? Cioè oggi una nostra guida turistica prende 7 euro l'ora, noi abbiamo 28.000 protocolli notarili antichi e ne abbiamo restaurati una goccia, insomma 10. Questo è il patrimonio più sconfinato che l'umanità abbia, questo il problema è va visto positivamente, non negativamente. Dobbiamo rimboccare le maniche, tanto più che creano valore. Nel momento in cui noi facciamo una mostra e i turisti si fermano, sono valore. Noi abbiamo qui, all'Archivio di Stato di Roma, la più grande collezione di cartografia della Cina in epoca Ming. capisce le potenzialità. Certo, poi ci vuole la gente che però le studia. Una di queste che studia è Francesca Curti, 36 anni, laurea e dottorato in storia dell'arte e archivista, che ha avuto tra l'altro il merito di portare alla luce un verbale che ritarderebbe l'arrivo di Caravaggio a Roma al 1596 rispetto al 1592 finora ipotizzato. Ma l'alta specializzazione in Italia non paga. Bisognerebbe trovare altri modelli contrattuali che però non siano di sfruttamento, perché purtroppo questo è il problema poi di fondo, che per chi fa questo lavoro è difficile anche ricevere un compenso minimo adeguato, perché non è molto considerato, ecco. Io posso fare il confronto con l'estero e lo vedo, insomma, la differenza c'è. A questi livelli, perché qui parliamo, diciamo, di appunto di alte specializzazioni, perché non tutti gli storici dell'arte, per esempio, io faccio il mio caso, riescono a leggere i documenti antichi. Chi ha un'alta specializzazione sono poche persone, non tantissime, però chi ce l'ha vedo che viene riconosciuta all'estero, qui di meno. La situazione, insomma, non è facile per chi ha studiato, per chi si è preparato e vuole dedicare la sua opera a questo settore. Il problema non riguarda solo i ricercatori super specializzati come Francesca Curti, ma più in generale tutto il mondo degli operatori della tutela artistica e del restauro, ai quali si chiede sempre maggiore preparazione e formazione a fronte di un mercato del lavoro sempre più difficile e competitivo. Intanto è arrivato il riconoscimento di laurea specialistica per i titoli rilasciati dalle 3 scuole di restauro del Ministero dei Beni Culturali. Un passaggio importante, come spiega Gisella Capponi, direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma. Significa tanto, perché significa un cambiamento radicale, nel senso che il restauratore è riconosciuto come un professionista. E quindi è veramente un cambiamento epocale, e questo si deve alla diversa formazione che i restauratori, attraverso in primis la nostra scuola, hanno avuto. Infatti questo corso di laurea è un corso di laurea su 5 anni, non è neanche un 3+2, quindi è un corso come una laurea specialistica. Ma quali sono le prospettive per un giovane che si laurea in restauro? Ha delle grosse difficoltà, si trova sicuramente a poter fare un lavoro bellissimo, perché un lavoro a contatto con un'opera d'arte è sicuramente un lavoro comunque di grande veramente passione, coinvolgimento, però indubbiamente la situazione attualmente non è facile, perché purtroppo il mercato è inflazionato anche da persone poco qualificate. E non solo, il mancato riconoscimento della professionalità, denunciano i restauratori, arriva anche dagli appalti. Sempre di più, infatti, vengono assegnati lavori di restauro a imprese edili generiche. L'ultimo caso eclatante è quello del Colosseo. Secondo l'Osservatorio sui lavori pubblici, su 644 restauri realizzati nel 2009, solo 26 sono stati realizzati dai restauratori, il resto dalle imprese edili. Un problema portato alla luce dall'Associazione Restauratori d'Italia. Sentiamo la presidente Carla Tomasi. C'è un passaggio di consegne del patrimonio culturale alle ditte edili. Il nostro patrimonio, la nostra ricchezza, forse è stata individuata proprio come una ricchezza, ma non nel senso, diciamo, aulico della parola, ma forse in un senso diverso. Questa ricchezza deve essere convogliata da qualche parte, che non è quella della qualificazione professionale, ma altre strade. Se effettivamente si prosegue su questo doppio binario, cioè la dequalificazione della figura professionale e la mancata attribuzione degli appalti correttamente individuati, quello che ovviamente succede è che il restauratore diventerà un operaio, e certamente non è, diciamo, affascinante per le generazioni future studiare per 5 anni e poi ambire a contendersi le superfici con gli operai dell'edilizia. Sono le 13:44 minuti e 16 secondi. Ringrazio Chiara Di Cristoforo per questo reportage sulle belle arti in Italia. Italia in Controluce era la seconda edizione. Cercateci su Facebook, su Twitter oppure sul nostro sito radio24.it. Domani alle 6:30 con altre storie su Radio 24.